America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Ieri la notizia dominante, devo dire, se ne è parlato molto nei programmi televisivi del mattino, è questo piano del Pentagono per inviare truppe, carri armati, armi pesanti nei paesi dell'Europa dell'Est, in Lettonia, Estonia, Lituania, 150 uomini ciascuno, Polonia, Romania, Bulgaria, 750 uomini per ciascun paese. È chiaro che l'attenzione aumenta e agli Stati Uniti non basta più dare un messaggio con delle sanzioni. Rispondono solo in parte alle richieste di Polonia, Romania, Bulgaria di inviare truppe permanenti. Eppure è un messaggio importante, una svolta. È la prima volta dalla fine della Guerra Fredda che la tensione sale su questi livelli, portando quasi l'idea di un possibile confronto diretto. C'è da chiedersi se questa risposta decisionista di Barack Obama non arrivi anche perché il presidente ha subito una bruciante sconfitta su un altro fronte proprio nel fine settimana. Sentiamo. These markets outside the United States will help them grow and will help them hire more folks. Now, small businesses are the backbone of our economy. Eventually, like Nike's, they grow sometimes into really, really big companies. They employ millions of people. 98% of exporters are small business. Barack Obama non ce l'ha fatta, la notizia è di venerdì sera, ma nel fine settimana non si è parlato d'altro, non è riuscito a ottenere il cosiddetto fast track, cioè quella autorità negoziale speciale che gli avrebbe consentito di chiudere rapidamente un accordo per aprire i commerci con il mondo asiatico. Si tratta di una sconfitta non da poco, perché Barack Obama l'ha sofferta per mano dei suoi compagni di partito. Pensate che venerdì, quando ci si doveva preparare al voto, soltanto 28 deputati democratici avevano dichiarato di essere a favore del voto. Però, come vi dicevo, non c'è da preoccuparsi, l'America va avanti e vi racconto di un paio di notizie sempre del fine settimana che secondo me meritano di essere esplorate. I think a lot of people think of Twitter as the product or just the website, but the reality is Twitter is in front of people around the world every day. Un altro che non ce l'ha fatta, Dick Costolo, aveva promesso che avrebbe rimesso in piedi Twitter, che si sarebbe ripreso dopo un momento di grave crisi della sua credibilità di amministratore delegato di questo gruppo internet. Non ce l'ha fatta, dato le dimissioni. Tornerà a guidare Twitter Jack Dorsey, uno dei fondatori, ma dietro questo passaggio delle consegne c'è una storia anche, devo dire, molto molto interessante. Intanto c'è stato un azionista importante del gruppo che ha scritto un memoriale secondo il quale Costolo aveva sbagliato molte delle sue strategie. Però c'è un episodio che secondo me è molto interessante, che ci dà la misura di quanto stia cambiando tutto nella finanza, nella comunicazione. Pensate, Twitter, in questa storia che vado a raccontarvi, è stato tradito da se stesso. Cosa è successo? Che intorno al 29 di aprile, quando doveva comunicare i risultati trimestrali, qualcuno ha dato un comunicato stampa al centro di relazioni con gli investitori del Nasdaq, in modo che fosse lì pronto per essere diramato. In genere questi comunicati vengono rilasciati solo dopo la chiusura del mercato. E c'era questo comunicato che era lì, messo come in un limbo, nessuno se n'era accorto, fino a quando una società di internet che si chiama Celerit ha battuto tutti. Che cosa fa Celerit? Ha dei programmi che fanno degli scan, fanno come dire delle incursioni dappertutto su internet per cercare di capire quale fra i vari comunicati stampa che sono stati rilasciati può avere un certo interesse. Hanno delle parole chiave e, attenzione, tutto questo funziona elettronicamente. Ve l'ho detto già un'altra volta, in molti casi il ruolo del giornalista ormai viene scavalcato dall'elettronica, che è molto più rapida e molto più precisa, soprattutto quando si parla di numeri. Che succede? Che Celery si è accorta che Twitter aveva un comunicato in cui ammetteva di perdere parecchio, molto al di là delle aspettative, ed era già disponibile prima della chiusura dei mercati. Celery l'ha preso, l'ha messo immediatamente in rete e come? Ha twittato il fatto che Twitter stava perdendo molto più delle aspettative. A quel punto è successo un disastro su più fronti. Intanto in borsa il titolo ha perso in brevissimo tempo prima l'8, poi il 10, poi il 19, è arrivato a perdere addirittura il 25%, poi ha chiuso, ha recuperato un pochettino, ma lo stesso ha chiuso con una perdita colossale. Ma la notizia nella notizia è quanto questa tecnologia stia cambiando persino le dinamiche della contrattazione finanziaria. What I can tell you though is that when evidence came to light and when we finally achieved the transparency that is appropriate, we have acted and the company has acted with great zeal and diligence to get to the bottom of issues, to improve the processes to make sure they don't happen again, and to make sure that our cooperation with the police, with this committee and the like are such that we can bring any wrongdoers, if they are proven to be so, to account. Bene, infine, James Murdoch ha cercato di difendersi in ogni modo davanti alla commissione del Parlamento britannico che lo accusava di essere direttamente responsabile di quelle intercettazioni telefoniche per carpire notizie, ricorderete uno scandalo di qualche anno fa. Ebbene, a questo punto il giovane Murdoch è completamente riabilitato, il padre ha deciso che sarà lui a guidare la 21st Century Fox, e però c'è un elemento molto interessante, che l'altro figlio, Lachlan, diventerà presidente esecutivo, quindi c'è stata una rappacificazione con questi due figli, però vedremo se i due figli saranno in grado di lavorare insieme, che poi è il sogno di Murdoch. Non è chiaro quali saranno i tempi, ma sicuramente si chiude un capitolo. Murdoch sta ancora benissimo, oltre 80 anni, però è in splendida forma, continuerà a fare la regia dietro le quinte, ma la successione di un gruppo molto importante è strutturata, e quindi dopo le due notizie, come dire, non rassicuranti che vi ho dato dal punto di vista dei Murdoch, quantomeno chiudiamo con una buona notizia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di una delusione, questo mancato accordo commerciale, e vi propongo una canzone dedicata al Pacifico del musical South Pacific. Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room, and somehow you know, you know even then, that somewhere you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may che è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.